Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera cominciamo con una buona notizia. L'Italia ce la può fare. Questo è il titolo del libro di Francesco Costantini. Buonasera Francesco Costantini. Buonasera. Francesco Costantini ha scritto questo libro che è un po' una biografia e un libro di storia con il sottotitolo Le confessioni di un ottimista scettico, prefazione di Giampiero Mughini, edito da Metamorfosi. È un libro che racconta gli ultimi 80 anni della vita dell'Italia, che poi sono anche i primi 80 anni della vita di Francesco Costantini, che è stato manager di alcune multinazionali farmaceutiche soprattutto e, come scrive nel libro, ha terminato la sua carriera professionale come presidente di Farmindustria, che è l'associazione delle imprese farmaceutiche italiane negli anni 90. Come le è venuta, Francesco Costantini, l'idea di mettere in pagina questi ricordi? Grazie per averlo battezzato un libro di storia. Non mi posso vantare di essere uno storico. È un libro di cronache di una vita di 80 anni. Sono fogli di diario, in fondo. Alla fine della quale io mi sono reso conto di una cosa, che in questo nostro paese ogni 10 anni il valore fondamentale di riferimento della società è cambiato, passando dallo splendore degli anni 30, dei primi anni 30, certo, alla rinascita dei secondi anni 40, al benessere che abbiamo conquistato negli anni 50, alla libertà, la vera libertà che abbiamo tutti conquistato negli anni 60, infine alla violenza degli anni 70 e alla corruzione dilagante degli anni 80, per poi arrivare a una grande speranza negli anni 90. La speranza che questo paese si rinnovasse, e per cadere nel 2000 in una menzogna totale. Ecco, questo libro appunto è scandito capitolo per capitolo, ogni decennio ha un suo capitolo, e inizia con una frase di Pericle: noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore. È una frase che è anche in conclusione di questo libro, è un po' il segno di un libro che appunto racconta un'esperienza umana sullo sfondo di uno scenario in cui ci sono tante cose, tanti personaggi, tanti cambiamenti, e quello che prevale in questi cambiamenti in fondo è, come diceva appunto il dottor Costantini, la volontà di cambiare, ma anche una grande incapacità di prendere poi coscienza della storia. Gli italiani in fondo non sanno imparare dai propri errori. E lei ha perfettamente ragione, ma tutto questo libro è un inno alla libertà e alla verità. Ma finché i suoi e i miei connazionali non entreranno in questo clima nel quale la verità e la libertà sono i valori fondamentali ai quali ispirare tutta la nostra vita, noi continueremo a declinare, perché non ci raccontiamo le cose come sono. Lei guardi la politica di tutti i giorni di quest'ultimo decennio, di questi ultimi 40 anni. Guardi la politica di tutti i giorni. È un inno alla menzogna, è un inno a nascondere i problemi, a evitarli, evitare di affrontarli in maniera totale. Sì, è uno scenario in cui si parla d'altro rispetto ai problemi del paese, che ogni tanto si accennano per poi continuare per sempre la solita strada. Ecco, il libro si conclude con due pareri di due suoi amici, uno si chiama Francesco e un altro si chiama Lodewijk. E il primo dice: l'Italia, dopo aver raggiunto la più completa insignificanza culturale, prosegue con determinazione la sua marcia verso il disastro economico, accompagnato dalla fanfara comica della farsa politica. È un giudizio molto, molto drastico, direi. Sì, questo è un giudizio molto drastico. Non è il mio giudizio, perché Francesco, nonostante Giampiero Mughini lo definisca il mio alter ego, in realtà è un mio amico, non sono io. Non condivido un parere così tranciante. Secondo me l'Italia ce la può fare. Se guardiamo dentro di noi, guardiamo anche alla nostra storia. Ma lei pensi, negli anni 30 siamo usciti dalla crisi del 29 e abbiamo costruito una potenza imperiale rispettata in tutto il mondo nell'arco di 6 anni. Ma lei pensi, negli anni 40-50 siamo usciti da una guerra devastante e abbiamo costruito un'economia che ha avuto dal Financial Times il premio di essere considerata la lira, la valuta migliore nel mondo. Ma lei pensi agli anni 70, quando eravamo sommersi, si ricorda, di violenza sanguinaria. Certo. E due statisti di rilievo, come Moro e Berlinguer, hanno inventato le convergenze parallele, storie un po' strane, oppure l'alleanza nazionale, il compromesso storico. e però un clima dal quale ricominciare a rinascere. Allora, ci siamo riusciti in passato, perché non dovremmo riuscirci oggi? Indubbiamente, anche guardando all'Europa, infatti il secondo parere che lei mette in conclusione del suo libro, di questo suo amico Leudevic, un attore dell'economia e della finanza internazionale, che dice che molti americani hanno pronosticato la caduta dell'euro, ma io credo fermamente che sia nell'Unione Europea sia dei benefici che l'euro produce. I problemi strutturali sono ancora ampiamente irrisolti, ma il bisogno dei paesi più deboli di restare in questa struttura economica li costringerà ad accettare misure di austerità che da soli non riuscirebbero a mettere in pratica. Quindi l'Italia ha la capacità, potrebbe avere la capacità di affrontare in proprio, quello che si dice, di fare i compiti a casa, che li abbiamo fatti, sì, però non li abbiamo forse conclusi questi compiti a casa. Dobbiamo andare ancora avanti nel ridare slancio a questa nostra economia. È possibile guardando in avanti. Lei mi deve consentire, i compiti non li abbiamo fatti per niente, non li abbiamo neanche cominciati, perché il problema dell'Italia non è più tasse o più austerità o più economia. Il problema dell'Italia è cambiare la struttura della nostra società, eliminare i vincoli che ci uccidono, far rinascere le opportunità che fanno crescere, ridurre un po' i diritti che hanno veramente esuberato in questo paese e riscoprire i doveri. Allora, siamo veramente alla base della società civile. I valori fondamentali li abbiamo dimenticati. Secondo me noi possiamo sicuramente farcela, ma dobbiamo prima riscoprire noi stessi. Ecco, da un profilo economico, lei è stato a capo appunto di Farmindustria, di un settore importante come quello della farmaceutica, un settore che anche per i collegamenti che naturalmente non poteva che avere e deve avere con la struttura statale, col sistema sanitario, negli anni 90 è stato un po' coinvolto in quella che era Tangentopoli, in quella che era la corruzione. In fondo non si potevano fare affari se non c'era qualche bustarella che passava. Abbiamo superato questo problema, lei è stato tra l'altro un po' un commissario di Farmindustria per superare questo problema. Adesso si ripropone? Dunque, se si riproponga adesso non posso dirlo in maniera assoluta perché sono fuori dai giochi ormai da troppi anni. Quello che posso dire è che effettivamente negli anni Ottanta la corruzione era talmente diffusa in questo paese che abbiamo assistito a fenomeni di degenerazione che hanno portato poi alle mani pulite degli anni 90. Ecco, io ho fatto il presidente di Farmindustria, ma sono stato il presidente Leone, il presidente Balneario. Ho soltanto permesso a Farmindustria di superare indenne e ripristinare la propria immagine questo periodo così funesto. Adesso si sta riproponendo la corruzione. Nella società civile certamente sì, nella società industriale io non lo so perché ne sono fuori, ma nella società civile basta guardare gli scandali politici che ci circondano per dire che questo paese, come le dicevo prima, deve prima di tutto ripiegarsi su se stesso e cambiare se stesso. C'è ancora troppo Stato, che poi vuol dire anche troppe regioni, troppe province, troppi comuni, troppa realtà pubblica che governa questo paese, che governa anche l'economia oltre che la società. Grazie, lei ha messo il dito sulla piaga. Ci sono troppi vincoli in questo paese. Lei pensi alle decine o centinaia o migliaia di enti che ci sono in questo paese, una ragnatela che impedisce di operare. Perché la gente, gli imprenditori italiani, vanno in Canton Ticino o in Slovenia? Vanno perché lì ci sono meno vincoli e più opportunità. Allora, se noi non riduciamo questa ragnatela, una cosa costosa dal punto di vista politico perché impegna i politici a prendere decisioni toste, ma se non partiamo da lì, l'economia non riparte. Cioè, bisogna passare un po' dalla politica delle parole alla politica dei fatti, perché poi questa analisi la si sente ripetere spesso: lo Stato deve ritirarsi, bisogna privatizzare, bisogna liberalizzare. Poi abbiamo visto, che so, l'ultimo rapporto sulle liberalizzazioni, l'unico ente che si è riuscito a sciogliere e neanche del tutto è stato un ente per gli ufficiali in congedo. Degli altri non si parla quasi più di questa struttura dello Stato. Perché questa incapacità di fondo? Allora, questa è un'incapacità politica, perché in Italia la politica ha collassato. Quando lei dice o assiste ad un fenomeno tipico dei nostri tempi, che le altre istituzioni in questo paese prevaricano la politica, ma non è perché sono dei prevaricatori, se la pigliano con la magistratura o con i sindacati, non sono loro che prevaricano, è la politica che ha collassato. Se la politica non riprende la nobiltà delle sue funzioni e non si rimette a fare quello che deve nella rappresentanza di tutti noi, suo e mio, certo, di tutti noi cittadini, non ne veniamo fuori. E allora la speranza può essere l'Europa, guardando in avanti, mantenere, consolidare i legami con l'Europa, ma anche aiutare l'Europa in fondo a cambiare, a essere più propositiva verso i paesi, a essere più partecipativa verso i problemi dei paesi. Sì, la speranza è l'Europa se l'Europa cambia. Se l'Europa rimane quella che misura la lunghezza delle banane, l'Europa non serve a niente. Crea vincoli aggiunti, diventa una brutta copia dell'Italia l'Europa. Bisogna scoprire l'Europa politica e bisogna che l'Europa politica faccia politica. Ecco, lei in questo libro parla anche dei suoi viaggi, lei ha viaggiato molto, ha lavorato anche molto all'estero, appunto come manager di imprese multinazionali. Se dovesse, lei ama molto l'Italia, lo si vede da questo libro. Assolutamente. Ma se dovesse vivere all'estero, dove sceglierebbe di vivere? Gli Stati Uniti d'America. Perché gli Stati Uniti? Perché è il paese più libero che io abbia conosciuto. E in questa prospettiva che cosa differenzia di più gli Stati Uniti dall'Italia e l'Italia dagli Stati Uniti soprattutto? La differenza sta nel rispetto delle altrui opinioni. Negli Stati Uniti, se tu hai un'opinione diversa dalla mia, non è che la tua è sbagliata e la mia è giusta, come sarebbe in Italia. Sono solo due opinioni differenti che si confrontano e dal confronto leale di due opinioni diverse viene la decisione giusta. Ecco, avviandoci alla conclusione, lei ha dato un titolo appunto a questi capitoli che si segnano questo libro: gli anni 70 la violenza, gli anni 80 la corruzione, gli anni 90 la speranza, il nuovo millennio la menzogna. Se adesso scriverà sicuramente un altro libro, è il primo, anzi il secondo decennio di questo terzo millennio, come spera di poterlo intitolare, di poterlo chiamare? Spererei di poterlo chiamare La verità. La verità, cioè il ritorno alla verità, il ritorno a guardare le cose con la concretezza dei problemi, cercando di dare una soluzione che parta appunto da ciascuno di noi e non da tanto di quello che devono fare gli altri. Bravo, proprio così, partendo da noi. E quindi lei ha un'esperienza di 80 anni, possiamo dirlo, più di 80 anni nella vita sociale, nella vita civile, ha ancora un compito da svolgere, che magari svolge diversamente dal passato, scrivendo dei libri, portando le testimonianze, parlando alla radio come ha fatto questa sera, e di questo la ringraziamo, e quindi si sente ancora un protagonista della società. La ringrazio io. Grazie mille, grazie a Francesco Costantini di essere stato con noi questa sera. Francesco Costantini, lo ricordo, è stato manager ai vertici delle multinazionali farmaceutiche americane, è stato presidente di Farmindustria e ha scritto per Metamorfosi il libro Sì, l'Italia ce la può fare, le confessioni di un ottimista scettico. È un libro di 216 pagine, costa 16 euro. Ringraziamo Francesco Costantini, ringraziamo quanti ci hanno ascoltato, ricordiamo anche che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona serata.